Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Segno meno davanti al numero delle compravendite, segno meno davanti ai prezzi per il mercato immobiliare, è una fase difficile per qualcuno, piena di opportunità invece per altri, di sicuro è un momento da analizzare attentamente. Di fatto, come era ampiamente atteso, il mattone italiano sta adeguandosi alla crisi, meno credito, meno mutui alle famiglie, minore possibilità di indebitarsi a lungo termine, dunque meno acquisti e di conseguenza riflesso anche sui prezzi. Chi ha una casa con un discreto prezzo di carico ci sta pensando bene prima di vendere, se non ha proprio la necessità impellente di farlo. Chi invece deve comprare, se non ha un'esigenza urgentissima, aspetta che i prezzi scendano ancora. E allora, guardando ai prossimi mesi, quali sono le previsioni recenti degli osservatori più autorevoli? Questa mattina ce le faremo direttamente raccontare da Alessandro Ghisolfi, responsabile dell'ufficio studi di UBH, una società di partecipazione attiva nel settore immobiliare della mediazione creditizia. Bentornato Salva Danaio. Grazie, buongiorno. Bentornato anche al presidente di Scenari Immobiliari, Mario Breglia. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. E naturalmente, oltre agli ospiti, anche le vostre considerazioni e le vostre domande all'800 24 00 24 per intervenire in diretta o al 349 238 6666. Se volete invece intervenire solamente attraverso uno scritto, quindi con i vostri messaggi. La borsa positiva stamattina dopo i ribassi di ieri, oggi si recupera terreno, abbiamo un rialzo di circa un punto su tutti i versanti geografici, a Parigi, a Francoforte, a Londra, Milano più 1,05% sul FTSE MIB, ma il vero protagonista del giorno ancora una volta è l'euro, che sul dollaro sta correndo letteralmente. Oggi abbiamo toccato e testato una nuova soglia, abbiamo superato 1,48 per volare fino a 1,48,22 e ripiegare adesso leggermente al di sotto di 1,48, anzi adesso siamo proprio a 1,48,01. Quindi moneta unica europea fortissima, anzi dollaro debolissimo. Si riunisce oggi e domani la Banca Centrale Americana. Non ci sono più margini di intervento sui tassi di interesse e quindi vedremo anche insomma cosa stabilirà la Federal Reserve. Di fatto gli investitori dal biglietto verde stanno continuando a scappare e c'è anche attesa per l'esito del G20 di Pittsburgh di questa settimana. Mondadori, miglior titolo a Piazza Affari più 3,56%, recupera quanto ha perso ieri, STM più 3, Unipol più 2,56, Autogrill in rialzo di 2 punti, più 1,9 per Campari ed Eni, mentre abbiamo un unico calo in questo momento a Milano, CIR meno 0,28, molto debole anche la giornata di Unicredit, ma abbiamo letto in questi giorni di questa possibile nuova iniziativa di rafforzamento del capitale, forse arriva un nuovo aumento di capitale da 4 miliardi, lo indica il Messaggero, ce n'è già stato uno molto importante negli ultimi mesi da 6,5 miliardi, pur di non far ricorso ai Tremonti Bond, le banche italiane stanno tentando di tutto, vedremo come finirà anche questa questione di Piazza Cordusio. Noi però lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di oggi, un tema che ai nostri ascoltatori appassiona sempre molto. Qual è lo stato di salute del mattone italiano? È presto per parlare di ripresa, ma qualche segnale di stabilizzazione si inizia ad intravedere anche per il mattone. Almeno così sembrerebbe stando agli ultimi rapporti del settore immobiliare. Il mercato è apparso ancora rallentato, le transazioni sono in sensibile diminuzione, ma la sensazione degli operatori è che a partire dal secondo trimestre del 2009 ci sia stata perlomeno una ripresa della fiducia e di conseguenza dell'interesse verso l'acquisto dell'abitazione, in particolare della casa principale. Secondo i dati delle compravendite del gruppo Tecnocasa, ad esempio, risulta che nella prima parte del 2009 il 77,9% delle compravendite sono state finalizzate all'acquisto dell'abitazione principale e il 22,1% ad uso investimento o seconda casa. Bisogna considerare che il ribasso dei tassi di interesse, la consapevolezza che il mercato immobiliare abbia ormai intrapreso una nuova direzione e le opportunità offerte dalla diminuzione dei prezzi hanno ridato fiducia anche a chi, disorientato, aveva rimandato l'acquisto dell'abitazione. Allo stesso tempo, proprio la discesa dei tassi unita a un aumento degli affitti ha fatto sì che l'acquisto della casa e di conseguenza le rate del mutuo da pagare si siano rivelate essere in alcuni casi più convenienti rispetto all'affitto. E abbiamo citato nella nostra scheda il rapporto di Tecnocasa. Sentiamo allora le previsioni sul mattone presentate nei giorni scorsi proprio da questo importante player del settore. Fabiana Meglio, la responsabile ufficio studi di Tecnocasa, ne ha parlato venerdì a Focus Economia, ospite di Sebastiano Barisoni. Sentiamola. Noi abbiamo fatto una previsione per il 2010, quindi per il 2009, che è ancora in corso, quindi per la fine dell'anno, di ancora un calo dei prezzi che noi abbiamo stimato tra un meno 3 e un meno 5%. Per il 2010 riteniamo che il mercato possa dare ancora dei segnali di ribasso dei prezzi, ancora più contenuto, quindi tra un meno 1, un meno 3 e un meno 1%, e riteniamo che nel 2011 possa essere l'anno in cui si potrà raggiungere la stabilizzazione delle quotazioni. Con percentuali diverse, mi sembra di capire che tutti gli osservatori siano più o meno convinti del fatto che il 2009 si concluderà ancora con un calo delle compravendite e un calo ulteriore dei prezzi. Anche il 2010 sarà difficile, meno difficile del 2009, e forse qualche schiarita decisiva con il segno più, cioè davanti, lo vedremo a partire dal 2011. Abbiamo un'interferenza, forse il telefono di Alessandro Ghidolfi, che adesso gli facciamo subito spegnere. E allora io inizio con Mario Breglia, perché a guardare dalle previsioni che ho letto in questi giorni, Breglia, mi sembra che quello di scenari immobiliari sia quello un po' più cauto di tutti, più prudente, forse il più pessimista. Voi avete visto, avete previsto, lo avete indicato nel vostro forum che svolgete ogni anno a Santa Margherita Ligure, una ulteriore discesa dei prezzi anche nel 2010. Mi dà qualche percentuale? Siete in linea con quelli indicati da Tecnocasa, meno 3, meno 5% complessivamente per il 2009? Intanto abbiamo avuto un 2009 con una prima parte pessima e la seconda parte, che si sta concludendo, è meno negativa. Quindi per il 2010 noi riteniamo che ci sia sul fronte dei prezzi ancora una tendenza alla discesa. Abbiamo stimato un meno 2% sul 2010, probabilmente noi avremo nel primo trimestre o nel primo quadrimestre una discesa più accentuata per poi stabilizzarsi intorno allo zero. Va anche tenuto presente che il mercato della casa in Italia, più che negli altri paesi, è estremamente frammentato, per cui noi abbiamo contemporaneamente delle zone, penso alle aree di migliore qualità delle grandi città, in cui i prezzi sono fermi da un paio d'anni, mm-hmm. addirittura in qualche caso risalgono, per esempio per le piccole dimensioni. E poi... aree come gli Interland, o soprattutto dove si costruiscono case nuove, in cui le quotazioni sono scese anche del 30%. Certo. Questa è la grande variazione del mercato. Certo, anche perché insomma negli Interland si comprano soprattutto determinate tipologie di famiglie che in questo momento sono quelle che forse hanno un po' più di difficoltà di accesso al credito. Breglia, o è una spiegazione come dire un po' troppo sbrigativa? Ma è proprio questa. Infatti noi abbiamo coniato l'immagine delle due bolle, contrapposto all'immagine della bolla del mercato immobiliare, che non è scoppiata perché non c'era. Noi abbiamo una bolla, cioè una grande crescita della domanda di abitazioni da parte di famiglie a basso reddito, o di giovani che stanno incominciando il lavoro, sono precari, o gli immigrati, che è una domanda fortissima. Quindi aumenta questa domanda di case, che però per diventare reale ha bisogno soprattutto di mutuo, e non di un mutuo al 50% del valore della casa, ma all'80-90%, come è stato negli anni scorsi. Quella fascia sociale che era stata molto ben accontentata negli ultimi anni, sì, con tutti i problemi che poi abbiamo anche conosciuto, il mutuo a tasso variabile e quant'altro, esatto, però adesso non viene penalizzata più soddisfatta perché non può accedere più al mercato del credito. E dall'altro lato abbiamo un'offerta che oggi oscilla tra 150-200.000 case nuove o in corso di costruzione nelle periferie delle città o negli interland, nei piccoli centri, che anche con un prezzo che si è ribassato del 25-30%, non riesce a incrociare infatti, la domanda. So che questo è, come dire, l'oggetto della sua grande preoccupazione. Leggevo proprio la sua intervista che le è stata fatta dalla collega del Sole 24 Ore, Evelina Marchesini, responsabile di Mondo Immobiliare Casa e Case, sul mercato del nuovo. Adesso andremo, perché è sicuramente un'analisi molto interessante. Andiamo però all'analisi invece, il rapporto di UBH, il rapporto previsionale. Alessandro Ghisolfi, per quello che vi riguarda invece, dal punto di vista intanto diamo, è chiaro che è un mercato molto frammentato, ha ragione Breglia, è, dobbiamo fare tantissime eccezioni, però è un mercato che si muove anche per statistiche, voi ci date sempre dei grandi aggregati e una visione complessiva dell'andamento di questo mercato. Allora, come chiuderemo questo 2009, che previsioni fate per il 2010? Sì, è verissimo che il mercato è molto frammentato, e quindi dare le percentuali sulle variazioni soprattutto dei prezzi più che sulle compravendite a volte può fuorviare, nel senso che appunto parlare di un meno 1, meno 3 sembra non significare tanto, però effettivamente se in questo meno 1, meno 3 rappresenta un po' il campione totale del mercato, ci può anche stare. Poi, come giustamente diceva anche Breglia, c'è il meno 25 magari del nuovo nell'Interland, o il meno 10 o il meno 15 che vanno, o il meno 20 dell'appartamento in periferia. Quindi tutti d'accordo che siamo con il segno meno e che comunque il 2009 si chiuderà con il segno meno. Io avevo soprattutto posto l'accento sul fatto che anche guardando indietro nel passato è per la prima volta dopo almeno su uno sguardo di almeno 25 anni sì. di mercato, terzo anno di seguito con il segno meno sui volumi, sulle compravendite è un dato purtroppo negativo, però anche interessante, nel senso che c'è stata questa escalation di flessione di domanda. La cosa interessante, se ne fanno pur sempre 600.000 comunque, nonostante siamo lontani da quel top del 2006, 845.000. Bravissimo, infatti siamo tornati, diciamo, un po' alla metà, inizio anni 90, come numero di compravendite. Probabilmente chi manca di più è proprio quella fetta di cui si parlava prima con Breglia, cioè del... I lavoratori extracomunitari, piuttosto che la giovane coppia che deve comprare, cioè coloro che dovrebbero fare il mutuo e il finanziamento al 100%. Anche se forse di questa situazione potrebbe approfittare quella fetta invece di acquirenti che guardano il mercato immobiliare come puro investimento, e forse adesso è proprio il momento di andare a caccia di occasioni, visto che la borsa grandi soddisfazioni non ne dà, o almeno è tornata a darne da marzo, ma c'è ancora una grande incertezza sul mercato azionario. Altre asset di investimento invece sono più penalizzanti, mi riferisco ai titoli di Stato, quindi chissà che il mattone, almeno da questo punto di vista, non abbia qualche sorpresa da riservarci. Eccoci qua oggi a caccia di affari nel mattone. Non abbiamo esattamente questa, come dire, predisposizione a salvadanaio, stiamo solo cercando di capire qual è la situazione attuale, quali previsioni fanno gli osservatori più importanti, più autorevoli per la conclusione del 2009, per il 2010, anche perché il mattone è da sempre l'investimento preferito da parte degli italiani, e quindi siamo molto interessanti a capire che tendenza si ha in relazione alla crisi che stiamo vivendo, che adesso è diventata terribilmente crisi dell'economia reale. Lo dicevamo proprio a microfoni spenti con Alessandro Ghisolfi di UBH. Questa primissima frazione di settembre è piuttosto complessa. Noi stiamo viaggiando adesso per analisi che riguardano la prima parte del 2009. Stringendo il raggio d'azione temporale, Ghisolfi, settembre è difficile per gli operatori del settore? Beh, diciamo che allora solitamente il aprile, maggio, giugno sono sempre mesi molto favorevoli al mercato, come poi lo sono anche comunque nell'autunno. Le impressioni ricavati, i sentiment, come si suol dire, ricavati dagli operatori in questi primi 3-4 settimane di lavoro sono comunque di un mercato sempre molto difficile, quindi non mi sentirei di poter dire vediamo già dei segnali forti di ripresa o di cambio di ciclo. Questo per tornare anche alle previsioni poi sull'anno prossimo. Io credo che ci sia ancora molto da lavorare proprio sul fronte dei prezzi, sul fronte del venditore che è ancora ancorato spesso a valori che erano già sovravalutati del proprio bene nei momenti di mercato particolarmente vivace, e quindi insomma rimboccarsi le maniche ancora per un po'. Tra l'altro, visto che lei ha citato anche proprio la parola magica nel rapporto della compravendita venditore, poi mi piacerebbe capire anche qual è in questo momento la forbice fra il prezzo dell'offerta e il prezzo che invece un possibile acquirente è disposto a dare, perché credo che lo sconto si sia notevolmente ampliato rispetto a quello che era possibile individuare almeno fino a qualche tempo fa. Oltre ad Alessandro Ghisolfi di UBH, abbiamo con noi stamattina anche Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, ma abbiamo anche i nostri ascoltatori che comincerei subito a sentire. Allora, Roberto da Fidenza inaugura le nostre chiamate di stamattina. Benvenuto, Roberto. Buongiorno, Deborah, e grazie per avermi chiamato. Grazie a lei, ci dica. Io volevo chiedere, uno che volesse investire tipo come seconda casa, sì, prendere magari una piccola azienda agricola così per uscire dalla città, come mai questo tipo di investimento è così, è molto caro, così, tenuto presente che i prodotti agricoli praticamente non valgono niente? Tenga presente che ci vogliono 50.000 euro per prendere un ettaro di terreno, minimo, una cosa media. Ecco, volevo sapere se i vostri esperti mi sanno dire il perché. Che valutazioni fanno di questo ambito di investimento che interessa a lei, Roberto? Allora, Mario Breglia, come la vede? Roberto è interessato ad un investimento, lui dice, di seconda casa, in realtà voglio partire proprio da zero, un terreno agricolo, probabilmente da edificare, costruirci sopra una piccola aziendina agricola. Dipende dalla zona questa considerazione che Roberto fa di prezzi che si mantengono ancora molto elevati, secondo lei? I prezzi dei terreni sono storicamente elevati in Italia. Ci sono due tipologie, per sintetizzare. Il terreno agricolo cosiddetto, dove poter fare agricoltura. In questi ultimi anni i terreni in pianura padana hanno avuto un fortissimo incremento, e quindi dai 50.000 euro al metro quadrato in su, perché il mercato del grano, il mercato dei cereali, il mercato di questa tipologia, il mercato del riso sono esplosi, quindi grande domanda a livello mondiale, e questo fatto in modo anche che il valore dei terreni crescesse. No, tra l'altro, guardi, la interrompo solo un attimo, Breglia, perché c'è un ascoltatore che ci scrive: mi spiace andare controcorrente rispetto a quello che avete detto fino ad ora, ma a Vercelli i prezzi non sono calati, Daniele. A Vercelli mi pare che il riso sia una delle principali, forse sarà per questo. No, è una grande domanda mondiale. Poi c'è una domanda tutta italiana, forse anche questo si inserisce nella domanda dell'ascoltatore, è che la domanda di terreni per fare olio o vino, in questo caso noi abbiamo un grande recupero, ed è un bene per il nostro territorio, recupero di terreni marginali per mettere dei vigneti. E anche questo ha creato valore a terreni che prima non lo avevano. Poi ci sono altre culture locali, ci sono l'olio, pensiamo agli agrumeti nel sud, le mele, ecco, tutti questi segmenti del mercato immobiliare legati all'economia agricola hanno avuto un forte incremento. Ma 50.000 euro per un ettaro, come Roberto indicava, secondo lei è un prezzo ragionevole, è un prezzo di mercato? Beh, dipende che cosa, appunto, è un prezzo equo per quanto riguarda un terreno agricolo in Lombardia. È un prezzo basso se pensiamo invece a un meleto in Trentino, dove le quotazioni sono 4-5 volte di più. È un prezzo un po' alto se parliamo invece di un vigneto in centro Italia, ma anche qui le tipologie sono molte, anche certo, perché dobbiamo considerare anche l'esposizione, la presenza dell'acqua, cioè tante tipologie tipiche per fare l'agricoltore o il viticoltore. Però, insomma, va anche considerato il valore degli immobili agricoli. Siccome nella maggior parte dei posti di campagna è praticamente impossibile edificare il nuovo, allora i valori dei casali, degli immobili agricoli, anche abbandonati, hanno avuto un forte incremento in questi ultimi anni. Tra l'altro con grande domanda anche da parte di acquirenti esteri. Infatti, che sono molto appassionati delle nostre campagne. E insomma, anche questo è un settore interessante. Sentirei Matteo dalla provincia di Milano. Matteo, buongiorno anche a lei. che pure osserva, mi pare di capire, che una tendenza alla diminuzione dei prezzi non si sia granché vista, almeno secondo la zona a cui lei è interessato, Matteo. Beh, diciamo di sì, io chiamo dalla provincia di Milano, meglio la provincia di Monza e Brianza, dove un leggero calo c'è stato. Anche se in realtà i costi sono altissimi nel senso che secondo me negli ultimi anni sono cresciuti in maniera spropositata, quindi le persone normali, quelli che possono fare gli impiegati piuttosto che dei lavori rispettabili, si trovano veramente in difficoltà a dover acquistare case che costano intorno ai 2.000-3.500 euro al metro quadro. E il mio problema non è tanto adesso l'acquisto, io nella mia esperienza personale non ho acquistato in fase di matrimonio la casa, la sto acquistando adesso dopo 10 anni, però sto partendo con una cifra economica che mi permetta di fare questo e molti miei conoscenti questa cifra non se la possono permettere. Certo. Allora, la mia preoccupazione sarà nel futuro capire dove il mercato andrà e se le case continueranno ad aumentare nei costi come lo sono aumentati in questi anni. Matteo, allora, sicuramente, almeno ritengo io, Alessandro Ghisolfi, il fattore tempo gioca a favore di Matteo, nel senso che non avendo fretta, già aspettato 10 anni, sicuramente questa fase adesso di ridimensionamento, di rallentamento, ripensamento del mercato immobiliare può rappresentare per Matteo un'occasione di cercare qualcosa che è più abbordabile rispetto ad un paio di anni fa, data la zona che lui cerca. Però ecco che sicuramente i prezzi possono subire un crollo radicale. No. È difficile, non lo so. Ma no, crollo radicale direi di no, a meno che appunto le cose non peggiorino così tanto che andremo ad assistere a un vero crollo, come un po' successo all'inizio degli anni 90, dove però lì avevamo avuto un aumento improvviso dei prezzi che era durato neanche 2 anni e ricordo che poi era stata una flessione dei prezzi che aveva interessato soprattutto i centri storici delle grandi città, cioè lì l'abbassamento dei valori era partito dai centri storici e dai 9, se non addirittura 18 milioni di lire al metro quadro, nel giro di 6 mesi si era passati agli 8 milioni di lire al metro quadro. Cioè nel giro di 6 mesi meno 50%. Sì, c'erano state anche di queste cose, e però appunto con motivazioni completamente diverse. Mi sentirei di dire che in quel caso si poteva parlare veramente di uno scoppio, di una bolla. Comunque anche per l'ascoltatore, pensando a tutti i cicli che ci sono stati nel mercato, è verissimo che abbiamo comunque dei momenti in cui i prezzi possono salire e poi fermarsi, poi scendere, ritoccare e appunto poi ricominciare a salire, per cui oggi per un potenziale acquirente sicuramente è più facile riuscire a condurre la trattativa, spesso ha la possibilità di quindi spuntare qualcosa di meno, anche se, come lui diceva, tra l'altro appunto in una zona, quella di Monza e della Brianza, che è comunque una zona ricca, è una zona quindi con un mercato in cui i prezzi sono notevolmente cresciuti in questi ultimi anni, perché comunque c'era anche molta domanda di ricambio o di chi voleva acquistare la prima casa, per cui acquistare ha portato, cioè questa forte domanda ha portato i prezzi a crescere. Oggi quindi è più facile, dicevamo, riuscire comunque a cercare qualcosa di interessante, avendo la possibilità di poter trattare un po' meglio sul prezzo. Io credo che questo è l'unico suggerimento pratico che possiamo dare al nostro ascoltatore: cercare di aver pazienza, individuare magari diverse occasioni e cercare di capire dove c'è magari una maggior fretta di vendere e lì cercare di puntare sull'abbattimento del prezzo. Questo può essere un buon suggerimento che deve andare poi a combaciare con la zona in cui si vuole acquistare. Certo. Perché ricordiamoci che poi se uno nella zona in cui vuole acquistare una zona in cui, come dicevamo prima, i prezzi hanno addirittura tenuto, nel senso che magari sono due anni che sono gli stessi prezzi e avendo l'inflazione praticamente a zero. Quindi il valore è rimasto. Ecco che allora si è anche disposti a fare qualche sacrificio. Cioè, non dimentichiamo che poi l'acquisto di una casa è anche una cosa molto emozionale. Esatto, quindi... infatti noi ecco qua stiamo ragionando proprio prettamente sui numeri, le statistiche stamattina, ma poi magari siamo disposti a spendere un po' di più per la nostra casa, ad accettare anche una situazione di stabilità sui prezzi se decidiamo che la casa che vogliamo è quella della nostra vita. A proposito di statistiche, e adesso devo andare ai suggerimenti per chi in viaggio, sì lo so, però volevo poi affrontare, lo anticipo già Mario Breglia, stiamo parlando adesso di Milano, Monza e Brianza, ma vorrei anche spostare un attimo al sud Italia, perché anche lì ci ascoltano, perché ci sono delle aree dove i prezzi sono continuati a salire, come per esempio le periferie di Vibo Valentia, Reggio Calabria. Vorrei capire cosa sta succedendo in queste zone, al punto che il mercato residenziale sta addirittura mantenendosi così vivace e sveglio. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi in diretta sull'andamento del mercato immobiliare. Prima di sentire Carlo da Milano e Lucia da Bari, no, sento subito Lucia da Bari, ho introdotto il discorso del Sud Italia, Lucia mi dia un assist e poi vado ad affrontare anche la situazione in Calabria, ma mi dia un po' lei la sensazione che ha in Puglia. La sensazione che ho in Puglia è che il mercato sia abbastanza fermo. Io volevo fare una domanda riguardo alle seconde case, alle case di vacanza, se hanno un andamento diverso rispetto alle prime case di città, le case di campagna o le case al mare. Questo volevo sapere, che cosa si prevede, perché ho in vendita dalla fine dello scorso anno una villetta sullo Ionio in provincia di Taranto. Ho difficoltà a vendere pur mantenendo un prezzo secondo me accessibile e valutato anche dalle agenzie immobiliari. Lucia, la ringrazio molto. Mario Breglia, allora, che cosa indichiamo a Lucia? Deve intervenire secondo lei ancora sul prezzo? Non conosciamo la qualità dell'immobile, è chiaro che riusciamo a dare un giudizio, un'indicazione solo superficiale, però se da due anni da lì lei reputa di mantenere un prezzo ragionevole, il mercato però mi pare dica il contrario. Tanto il contrario, che noi abbiamo fatto questa analisi che il Sole 24 Ore ha pubblicato un mesetto fa, in cui nel corso del 2009 avremo per la prima volta nella storia d'Italia il sorpasso degli acquisti di seconde case all'estero rispetto alle seconde case in Italia. Quindi circa 30.000 case per vacanza saranno comprate all'estero, di cui un terzo in America. E con questo cambio, tra l'altro, ecco la discesa del mercato a nostro favore, contro le 28.000 circa che saranno comprate in Italia. Perché le seconde case in Italia soffrono di tutti i problemi del mercato della prima casa. C'è una domanda più debole, difficoltà ad avere un finanziamento, una domanda preoccupata sull'investimento, in più si aggiungono le caratteristiche delle seconde case, nel senso che chi compra una seconda casa ha un regime fiscale diverso, meno agevolato. Vuole la casa di Montalbano, ecco, se avete in mente la casa di Montalbano sull'acqua, in un posto tranquillo, ecco, quella casa o simile si vende molto bene e c'è domanda. Se la casa è in una zona rumorosa, una casa anni 60, non esposta bene, o come capita la maggior parte delle seconde case in Italia al mare, che hanno bisogno di forti interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, non si vendono. E questa situazione non è solo il frutto di questa crisi, ma la contrazione del mercato delle seconde case è incominciato nel 2005, cioè in pieno boom immobiliare la domanda di seconde case si è ridotta a fronte di altri segmenti. Quindi rispondendo anche parzialmente alla domanda di Lucia, è comunque un mercato che non viaggia esattamente parallelamente con quello della prima casa. Non può andare anche peggio, come è successo in questi anni. Benissimo, allora mi sono allontanato un attimo per tossire naturalmente, perché ogni tanto mi strozzo in diretta. L'ultima considerazione, il tempo è volato anche questa mattina, credo di poter riuscire ad assegnarla a Carlo dalla provincia di Milano. Ah, devo anche esaminare la questione di Reggio Calabria, perché mi incuriosiva nell'esame del rapporto di scenari immobiliari. Sentiamo però prima Carlo, che saluto. Carlo, benvenuto. Buongiorno, grazie. Senta, io sono un imprenditore immobiliare che grotto nella zona di Legnano, Busto Arsizio, nord di Milano, sì, nord-ovest di Milano. I prezzi da noi non si sono abbassati, semmai non si sono alzati, e per i costi aumentati sono già un abbassamento, certo, diciamo, per gli operatori. Certo. Una cosa però che io noto, io ho seguito anche sul 24 ore, 3-4 giorni fa, il rapporto dei prezzi diminuiti, eccetera, eccetera. Ho seguito anche quello sulle case di vacanza, c'è stato circa un momento fa, un annetto fa. Noto che le aspettative del cliente sono di venire e fare l'affare del secolo. Ora, venire a fare l'affare del secolo vendendo un appartamento come prima casa può anche andare bene. Vendendo un appartamento come seconda casa con investimento si mette anche non al riparo un eventuale revocatore fallimentare, perché chi la svende è anche perché non ha più soldi. Dunque ci sono questi particolari da vedere, però le arriva il cliente e le dice meno 10, meno 15 e non si vende. Certo, ma infatti ritorna, però mi scusi signora, mi permetta, no, ma questa mentalità non è... diciamo così, mi sta sgridando perché io ho dato questa indicazione prima. Io ovviamente mi riferisco con grande rispetto alla vostra attività, Carlo, ma ovviamente stiamo sempre a parlare qua e discutere di termini generali, ma ovviamente come dire, io indicherei anche di andare a cercare l'affare del secolo Alessandro Ghisolfi laddove è possibile che questo si possa individuare, cioè laddove le case erano cresciute tanto e il venditore si ostina a voler rifarci ovviamente quel prezzo, adesso forse non è più il momento. Però Carlo forse si ne riferiva al mercato del nuovo di cui parlavamo prima, che vive un altro tipo di situazione. Sì, poi per carità, in questo settore, in questo settore di mercato, insomma, ogni cosa deve essere valutata molto bene, ogni situazione deve essere valutata con attenzione. I valori sono sempre dipendenti da 3.000 fattori diversi, quindi è vero che si cerca sempre di fare l'affare del secolo e poi non è detto che si riesca a fare. Poi sono sempre delle trattative, voglio dire. Sono trattative e l'abilità appunto dell'intermediario professionale e serio è quella di riuscire a far concludere l'affare e far sentire contenti entrambe le parti, cioè chi vende si rende conto di aver venduto comunque bene e chi ha acquistato si deve essere soddisfatto dell'acquisto che ha fatto con un prezzo, certo, equo. Probabilmente non siamo riusciti a come dire, ad accontentare con la nostra risposta a Carlo. Torneremo ancora una volta sul mattone, d'altronde inseguiamo sempre in maniera ossessiva, direi quasi, i rapporti quando escono. Intanto per stamattina Salvadanaio termina qua. Grazie ad Alessandro Ghisolfi e a Mario Breglia per essere stati con noi, grazie ai nostri ascoltatori, a Gaia Romani e ad Alessandro Longoni per la collaborazione in redazione. Questa mattina Carmelo Lauricelli in assistenza tecnica, finalmente sono riuscita a ringraziare tutti. Noi sul mattone torneremo molto presto, intanto da Deborah Rosciani, buona giornata.